Mario, fratelli Quintale, Bertacchi. Succhiami l'anima e il corpo come una sanguisuga finché ti accorgi che sono morto. Non voglio essere schiavo della vita, lei deve essere la mia troia, in più apparire divertita. La nostra Italia è messa male, tanto che abbiamo parlamentari che non sanno in che cesso andare. L'odio represso sale, ogni credo si avvale di un'arma e nel nostro è una strumentale. Mario Pitacchi in più mette la cattiveria che diamo, anche se non è colpa nostra ma di ciò che respiriamo. Ora l'Italia la prendiamo d'assalto, il mezzo sono onde sonore che cavalcano l'asfalto. Sputo sulle vostre facce da cazzo e le sventro. Non potete essere bravi MC se fate schifo dentro. Io sono me stesso sempre, voi invece siete i cloni dei falsi, per questo non valete niente. Yao. Puoi andare, ora puoi togliere il disturbo. Qui restano Mario e Tacchi, rime a flusso continuo. Fai il fenomeno, poi torni a casa curvo. Chi si atteggia da capo, ritorna a casa capochino. Lascia stare inutili atteggiamenti, seleziona l'ingresso, entri solo se sei genuino. Conta la fotta, di certo non gli indumenti. Alza il volume dell'impianto e fai crollare il condominio. Parli di traffici addetti, pistole dove le metti? Cose che vedi realmente, sì ma dentro i fumetti. Rapper buoni ad autocommiserarsi, il rap non è queste cagate, il rap vuol dire migliorarsi. Sei perso, fa la roulette russa con le parole. Magari ti esce una frase che abbia un senso compiuto. I'm sorry but for the bullshit I will again no time. Quindi ti saluto. Sono le sonore che cavalcano la spalla. Io resto nel mio cortile a giocare con quattro rime, quattro amici, 20 birre, una puntina ed un vinile. So che tu non riesci a capire di cosa parlo. Tu qua farà qua, io qua chiuso in saletta a farlo. Botte nelle orecchie, sucker messo alle strette, strofe malate infette, non le vostre canzonette. Se qua sono tutti bravi solo a parole, io rimango assieme a Neffa perché ancora aspetto il sole. La mia generazione abusa di alcol e droghe, finge d'essere diversa fingendo d'essere altrove. Ma poi ti risvegli nel mondo reale, la vita per quanto figa risulta sempre banale. Odio la sveglia, l'arroganza e chi ostenta, la birra analcolica, chi sogna e non s'accontenta. Sto su un burrone, pronto a fare un salto, spinto da onde sonore che cavalcano l'asfalto. Sono